Now listen to that new language in this next dialogue. Una singola condoccia, allora, per favore. Va bene, fino a martedì, giusto? Dunque, oggi è venerdì. Sì, quattro notti, vero Sara? Four nights. Yeah, that's right. Giusto. Posso avere il suo passaporto, per favore? My passport? Oh, yeah, here you are. Grazie. Una firma qui, per favore. Sign here, please. Here? Sì, grazie.